Una combriccola che non mi piace, Milan e gli altri. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui, cari ascoltatori, siamo dalla ridotta di Viale Monza in diretta per voi con Leonardone Manera Vestagliona che arriva alle 9:30 e siamo con voi fino alle 10:30 per tenervi compagnia in questo primo giorno. Ecco, io la vedo così, ognuno ha la prospettiva dal proprio punto di vista. Primo giorno di vacanza dei figli dalla scuola didattica a distanza oggi per una settimana. Va bene così, va bene così, è giusto il riposo pasquale per tutti, tranne che per i genitori che hanno i figli adesso che si aggirano per casa, poi una categoria molto ristretta, i conduttori radiofonici che ora sperano di non essere disturbati entro le 10:30. Comunque, come ve la passate? 800 24 00 24, questo è il numero per telefonarci, scrivete messaggi, WhatsApp, audio, tutto quello che volete al 349 238 6666. Mandate anche mail se volete a 100milan@radio24.it. Allora, saluto l'Alpino in regia, saluto Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli. Ci siamo tutti, possiamo anche partire. Vai. Enthusiasm about the future. Dunque, voglio partire con un sorriso perché sono riuscito ad ascoltarlo poco fa. Lorenzo Nespoli ha recuperato un audio di Briatore, ha detto ma dai lo mandiamo dopo che c'è Leonardo, ci divertiamo, ma voglio partire con il sorriso. Allora lo voglio far sentire subito, lo dico all'Alpino, cioè Flavio Briatore. Anche lui teme di avere fatto il coronavirus perché ha avuto una febbre che non passava qualche tempo fa e quindi ha detto non ho fatto mai il tampone, ma secondo me è stata una febbre molto sospetta. Ma come l'ha curata Briatore? Sentite bene. Allora tutti cosa dicono? Cosa prendi? Ti dicono prendi la tachipirina, no? Invece per Briatore la tachipirina per 3 volte cosa diventa? Senti, vai Alpino, vai. Mi sono fatto ricoverare io in ospedale perché non riuscivo a capire cosa avevo. Il professor Zangrillo continua a dirmi tachipirina, antibiotico, questo. Prendevo la tachipirina da 39,7, scendeva a 39,4, dopo 2 ore 39,7, per cui... Vivevo di tachipirigna, cioè era... Di tachipirigna, forse pensava alla caipirigna del vecchio billionaire Ale Briatore, la tachipirigna. Dai ragazzi, vabbè, era per iniziare con un sorriso. Perché sennò poi che cosa ho visto sui giornali? Tante volte sapete che mi piace concentrarmi sulle foto. Le foto raccontano storie tanto quanto i pezzi, gli articoli, no? Ebbene, c'è una foto che riguarda alcuni operatori sanitari della casa di cura privata del Policlinico, che è convenzionata con la regione Lombardia. Si sono presentati, sono immortalati con i sacchi dell'immondizia e i cerotti a protezione, cioè degli operatori della casa di cura del policlinico accreditata alla regione, visto che mancano i dispositivi di difesa nella struttura, che tra l'altro è un focolaio perché ha contagiati 25 pazienti e 21 assistenti, si sono bardati con i sacchi neri dell'immondizia e i cerotti a tenere sui calzari di plastica. Ecco, io una foto del genere, per carità, sarà un caso raro, sarà un caso anche unico, ma quando anche fosse solo uno, io dico, ci vorrebbe la famosa cura, caro Alpino, per chi ha consentito a queste persone di doversi proteggere solo così, la cura famosa del nostro ascoltatore Giuseppe da Reggio Calabria, mi sa, eh? Ci vorrebbe una bella passata di Miccio De Boe, in loco. Il Miccio De Boe, in loco. Allora, io vi voglio leggere un appello che è circolato molto su Facebook. Questo appello lo ha fatto una ristoratrice di Apricena, siamo in provincia di Foggia, e riguarda insomma questo famoso decreto che secondo il Presidente del Consiglio dispensa miliardi, decreto peraltro annunciato domenica. Abbiamo scoperto che solo ieri sera è arrivata la firma, il testo lo trovate sul sito del Sole 24 Ore, Sole24ore.com, insomma dopo tre giorni è arrivato, ci è voluto un po' il decreto pasquale, insomma un decreto di resurrezione, tre giorni per la firma, comunque è arrivato. Ebbene, questa ristoratrice Maria Grazia Ferrandino ha scritto un post che è diventato virale su Facebook, oggi il giorno lo mette a pagina 3, dal titolo "No grazie signor Presidente, un altro mutuo non voglio accenderlo, mi basta quello che ho, avrei voluto continuare a lavorare ma non mi resta che tener giù la serranda e chiedere il reddito di cittadinanza". E poi spiega perché dice: "Noi offriamo oltre a cibo sorrisi, abbracci, serenità, abbiamo chiuso prima di tutto, abbiamo scelto questa vita, noi ristoratori, una vita che non prevede sabati, domeniche, Natale, Capodanno, è il mestiere che abbiamo scelto rinunciando al posto fisso, detto alla Checco Zalone, è la vita, è il mestiere che amiamo, ma non accettiamo di sentire arriveranno miliardi, arriveranno solo i soldi per accendere un nuovo mutuo e quindi grazie infinite, ma anche no. Lo so, non ha voluto lei la situazione, ma io ho perso tutto, lei no. Grazie infinite". Firmato Maria Grazia Ferrandino. Ovviamente raccoglie un po' lo sfogo e vorrei chiedere anch'io a voi, se ci chiamate all'800 24 00 24, commercianti, che fine faranno i bar, i tanti amati bar che io adoro, amo frequentare nel mio quartiere, ogni tanto entro, bevo un caffè, a volte solo per una chiacchiera, a volte vado lì, dice "Toh, ti do un euro", perché è così, perché prima o poi verrò a bere qualcosa. Tutti i negozietti, le partite IVA, cosa succederà? Certo, c'è molta incertezza, lo scopriremo. È abbastanza impressionante sapere che al momento non ci sono grandi risposte. Prima di parlare di coronavirus, io però voglio raccontarvi una storia che i nostri ascoltatori in realtà conoscono anche abbastanza bene, perché è già la terza volta, se non sbaglio, che lo chiamiamo e lo saluto. Torna con noi Carmelo Calì, buongiorno e benvenuto Carmelo. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, la vicenda che dobbiamo riepilogare è presto detta. Carmelo con la moglie sta crescendo i tre figli della cugina Marianna Manduca. Marianna infatti fu uccisa dal marito a Catania nel 2007, fu uccisa nonostante le numerose denunce che lei aveva fatto nei confronti del marito violento. E la vicenda poi è diventata, da giudiziaria quella, a una vicenda prettamente economica, perché avete saputo forse dalle nostre precedenti trasmissioni che Carmelo Calì, la famiglia, i figli insomma di Marianna Manduca avevano ottenuto un risarcimento dallo Stato, un risarcimento di 259.000 euro, che poi lo Stato a un certo punto voleva indietro dicendo non si poteva impedire quell'omicidio nonostante le 12 denunce. Ora, Carmelo Calì, la decisione di ieri della Cassazione è di rifare un nuovo processo e che al momento non dovete più restituire questi soldi, se ho capito bene, giusto? Sì, sì, giustissimo. Tra l'altro è una sorpresa grande, visto il periodo che stiamo attraversando in Italia, che è quello del coronavirus. Era inaspettata, io personalmente non pensavo che venisse fuori proprio in questi giorni, però va benissimo così, perché per noi è una gioia grande sapere che comunque la magistratura ha fatto questo percorso, i giudici hanno lavorato veramente bene, ne avevo piena consapevolezza, ma soprattutto ci credevo tantissimo, come Marianna, del resto l'ha dimostrato con le 12 denunce, che credeva nella giustizia. Io sono come lei, credo nella giustizia, e giustizia in parte è stata sì, fatta. Sì, si sente un po' male, Carmelo, se non so se c'è un cordless o un via voce, si fa un po' fatica a sentire. Sì. Allora, nell'attesa di sistemare, ripeto, la notizia è una notizia positiva, certo, non dimentichiamo che c'è sempre un dramma di partenza, ripeto, Marianna certo. Manduca uccisa dal marito, aveva fatto tante denunce, la notizia positiva, 12, la notizia positiva in questo è che al momento la Cassazione ha respinto la decisione della Corte d'Appello, ha stabilito che bisogna fare un nuovo processo, però questi soldi... questa volta però. Ecco, questo perché è importante? Ma è importante perché io presumo, questo poi è da verificare perché io ancora sotto mano la sentenza non ce l'ho, però penso che è quasi scontato, visto il primo esito, non era più compatibile la sede di Messina, presumo che sia questo il motivo. Io sono felice soprattutto non solo perché non dobbiamo restituire i soldi, ma perché a questo punto... Sta venendo fuori che insomma la giustizia va fatta per tutti e questo è un passo davvero importante. Quello che dico sempre, denunciate, continuate a farlo e credeteci, perché le cose possono cambiare e noi stiamo facendo di tutto per farle cambiare. Quello è il messaggio fondamentale, perché detto da chi ha visto 12 denunce cadute nel vuoto e poi c'è stato questo terribile omicidio, nonostante ciò l'importanza di denunciare. Il punto era quello, cioè secondo alcuni magistrati, secondo la Corte di Cassazione, secondo la Corte d'Appello a Messina, non poteva essere evitato perché il delitto era comunque nella mente dell'uomo che voleva uccidere Maniando. Beh, guardi, nonostante le 12 denunce. Hanno avuto una risposta dalla Cassazione, che è l'organo competente più alto che abbiamo in Italia, no? Ha risposto molto chiaramente, non è vero, perché c'erano tutti gli strumenti all'epoca per poter aiutare Marianna e non è stata aiutata dai magistrati, quindi la sentenza lo dice chiaramente questo. Quindi io sono felice... perché il risultato per noi è doppio. Primo, per una questione economica va benissimo, ma soprattutto perché viene fatta giustizia e viene messo in luce che le leggi ci sono e bisogna solo applicarle, tutto qui. Il mio avvocato Alfredo Galasso e Licia D'Amico si sono prodigati e ci hanno creduto come me in questa storia. E i risultati li stiamo vedendo. Ci vuole molta, bisogna crederci tanto e soprattutto bisogna insistere, soprattutto sì. Bisogna veramente andare avanti e non abbattersi anche quando c'è l'evidenza contro, come è successo per noi in appello, dove addirittura ci dicevano che l'omicidio di Marianna era inevitabile, ma non è vero, non è vero. No, ma certo, ma Carmelo Calì, io spero che questa sia la fine, almeno dal punto di vista finanziario, di questa odissea. E certo, ci sarà un nuovo processo, quindi i colpi di scena in Italia la giustizia spesso è a tappe, ce li riserva di continuo. Ma noi siamo pronti a qualsiasi cosa, guardi, stia tranquillo, sì. Perché l'abbiamo sempre fatto. Sì. Mi creda, crescere 5 figli è una cosa grandissima, è un impegno immenso. Sì, perché ricordiamo, sono i 3 figli di Marianna e poi voi avete 2 figli. Sì. Quindi quindi non mi spaventa certo andare avanti in una cosa del genere, mi creda. No, ma infatti io so che quando l'abbiamo chiamata abbiamo sempre trovato tanto vigore, tanta forza, tanta capacità di resistere ma a qualsiasi forza, urto. Ma la forza, guarda, mi creda, me la stanno dando le persone comuni. Io ieri ho ricevuto centinaia di messaggi e ringrazio tutti, lo faccio adesso, ne colgo l'occasione per farlo ora. Di tantissime persone che non conosco, il quale si sono stretti intorno a noi dicendo che finalmente giustizia è stata fatta. Io dico che in parte è così, ancora siamo in un punto di ritorno, quindi ritorniamo in appello e porteremo avanti le nostre richieste, sperando sì. Che questa volta ci sia un esito più sia definitivo. Noi Carmelo Calì saremo qui quando vorrà a dare voce alla sua famiglia molto allargata. Ripeto, Carmelo Calì insieme alla moglie cresce i 3 figli di Marianna Manduca, donna uccisa dal marito a Catania nel 2007 dopo 12 denunce cadute nel vuoto. Ora la notizia, ripeto, buona per ora, che lo Stato con la Cassazione non chiede più indietro il risarcimento di 259.000 euro che lo stesso Stato aveva elargito e che la Corte d'Appello di Messina, quindi altro organo dello Stato, aveva detto dovete restituircelo perché nessun magistrato è colpevole per non essere intervenuto all'epoca dei fatti evitando l'omicidio. Ora questi soldi rimangono alla famiglia. è una piccola cosa, ma secondo me è assolutamente concreta e giusto. Un grande abbraccio, ovviamente buona Pasqua Carmelo Calì e cari ascoltatori, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi, ripeto, non ho detto questa cosa, poi se volete ne parliamo. Se vogliamo dichiarare una guerra contro l'Olanda per il fatto che con il suo premier, tra l'altro anche qui leggo sui giornali, potete immaginare, si chiama Rutte, potete immaginare i calemburi, i giochi di parole nei quali si sbizzarriscono alcuni giornali, e il suo ministro delle finanze, il durissimo, extra, inflessibile a dire ci vuole rigore e quindi non aiutiamo l'Italia, praticamente l'Olanda è rimasta l'unica a opporsi davvero a un'Unione Europea che aiuti anche l'Italia, altri paesi come la Spagna, la Francia per il coronavirus. Vabbè, se volete dichiarare la guerra all'Olanda ditecelo, non so, venite qua. Come dichiariamo guerra all'Olanda? Si scherza ovviamente. Tra l'altro sull'Olanda tenetevi forte perché alle 9.30 vi dico una cosa spassosissima che ha raccontato Paolo Valentino sul Corriere della Sera era qualche giorno fa e che mi fa morire da ridere, ma tra un attimo. Prima però voglio salutare con estremo piacere il ritorno di una sorta di ospite che è stata un po' il punto di partenza di tutta questa avventura che nessuno di noi voleva, lei per prima, ma neanche noi, ma tutto il mondo non voleva, che è la questione del coronavirus. Saluto Sara Platt da Wuhan. Buongiorno Platto. Buongiorno a lei, allora, come sta? Noi bene. Adesso, prima ve lo chiedevamo noi, come va lì, come va? Adesso siete voi, esatto, soprattutto, che ci chiedete come butta da quelle parti. Allora, come Sara butta Platt, da quelle parti? Insomma, a Milano è un po', si sta come Ungaretti e soldati, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, anche se è primavera. Senta, okay. Allora, Sara Platto, che è docente, abbiamo già detto, è veterinaria all'università di Wuhan, che non pronuncio perché non la saprei pronunciare. Perfetto. Ma fa anche parte, è consulente scientifica di una fondazione, la China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation, giusto? Spero di averla detto corretta. Corretto. Questa fondazione, io mi ricordo dal primo giorno quando ci siamo sentiti, ha detto si batte per un qualcosa che adesso è diventata una sorta di battaglia per alcuni a livello mondiale, e cioè, ma scusate, ma se per zoonosi, cioè questo procedimento per cui c'è il salto di specie dall'animale all'uomo dei virus, c'è davvero il rischio concreto che questi virus, come il coronavirus, passino da animali, che ne so, i pipistrelli o animali selvatici venduti nei mercati? Non è il caso questi mercati che vendono animali come il pangolino, il tasso da mangiare, vengano chiusi? Ecco, è un po' la battaglia che voi fate, se non ho capito male. Sì, esattamente. Allora, la questione è molto più complicata per quanto riguarda il passaggio del virus da un animale all'altro e quindi all'uomo. È molto più complicata la situazione, non è così semplice, nel senso che non è che il virus così salta, certo, a piacere e passa, non lo so, dallo zibetto all'essere umano. Ci sono degli step intermedi e tra l'altro è discutibile il fatto che il virus riesca a passare direttamente da un animale selvatico all'uomo, perché il passaggio, diciamo così, che in natura, okay, ogni cosa tende a passare da uno step all'altro facendo scalini abbastanza brevi, cioè fare tipo, non so, da un metro all'altro va bene, ma farne 5 d'un botto è molto difficile, ok? Quindi passare da un animale selvatico all'uomo è come dire fare 5 metri, no? Per cui ci vuole normalmente un animale intermedio che sia più vicino a noi, normalmente sono gli animali domestici, quelli, ecco, che funzionano da ospiti intermedi. Quindi è ancora discutibile, ok, la questione sull'animale, il passaggio diretto dall'animale selvatico all'essere umano. Comunque, però lei dice se in genere se si vietassero quei tipi di mercati, quel tipo di cucina, ecco, se si vietassero forse sì, saremmo problema, tutti più tranquilli. Sì, esatto, ma il problema, allora, le persone devono comunque capire una cosa, non è che il wet market è il mercato dove si vende solo l'animale selvatico. Non è così. Cioè, certo, il wet market è una, è un mercato rionale dove vendono frutta, verdura e carne, ok? Mm-hmm. E poi si chiama, certo, wet market perché gli animali vengono macellati sul posto, quindi polli, maiali, quello che sia. Poi succede che in questi wet market, sotto banco, a volte anche non così tanto sotto banco, vendono anche animali selvatici, però non sono mercati dove vendono solo animali selvatici. No, quindi questo è un po' un problema. Uno può andare lì a comprare la frutta e la verdura, quindi cosa nel facciamo? Senso, uno va a comprare, non so, la carne di manzo, di maiale, ok, e magari lo stesso venditore sotto banco macella anche, non so, il tasso, lo zibetto o il pipistrello, mi capisce? Cioè, però non sono mercati che sono adibiti solo a questa tipologia di animali. Capisce? Perché la gente, perfetto, molte persone mi hanno detto: oddio, in Cina hanno aperto ancora il wet market. Cioè, il wet market è un mercato rionale, cioè, chiaro, è come ok, c'è in tutto il e mondo, questa è la prima cosa. Sì, esatto. Allora, per esempio, in Asia, Taiwan nel 2014, credo, non so esattamente la data, in seguito per la questione di leggi relative all'animal welfare, praticamente ha proibito la macellazione nei wet market dei polli, ha cominciato per la storia dell'influenza, sì, aviare, ok? Quindi, allora, sì, i wet market sono un supermercato di bacilli, diciamo così, ma non solo per il coronavirus o comunque per diverse tipologie di zoonosi, ok? No, ma poi il tema è più ampio, professoressa Platt. Io sto leggendo, come molti in Italia, questo libro Spillover di David Quammen, che è un, sì, giornalista americano, ed è, come dire, un po' la Bibbia in questo momento per chi vuole capire questi salti di specie. E lui stesso dice: ma sì, anche l'Ebola è nato perché in Africa una tribù ha trovato un gorilla morto nella foresta, esatto, l'ha mangiato, e purtroppo questo gorilla era infetto. È chiaro che se noi andiamo nelle foreste, se noi andiamo in prossimità della natura, rischiamo questo tipo di zoonosi. Però che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Però non possiamo tornare a vivere rinchiudendoci nelle nostre comunità, no? E lasciando la natura lontana. Allora, non è quello, il problema è che la natura ha creato determinate barriere per evitare queste tipologie di spillover, ok? Allora, per esempio, il Nipah virus in Malesia si è sviluppato non perché gli agricoltori hanno bruciato parte della foresta per adibirla all'agricoltura, in particolar modo all'allevamento di suini, ok? E cosa è successo? Che hanno invaso zone in cui i pipistrelli di una specie determinata praticamente lo usavano come habitat, e di conseguenza si è avuto, diciamo così, un mescolamento delle specie, ok? In particolar modo cosa è successo? Perché c'erano i suini, quindi sono prima ammalati i suini con il Nipah virus, e da lì poi è passato all'uomo, quindi il suino ha rappresentato l'ospite intermedio. Come lei bene ha detto, l'Ebola, esattamente, la scimmia è stato l'ospite intermedio, e perché appunto il gorilla, lo scimpanzé sono comunque geneticamente e fisiologicamente molto simili all'uomo, quindi il salto da questa specie all'essere umano è risultato abbastanza facile, ma l'Ebola parte dal pipistrello. Certo, non è possibile nel mondo così globalizzato. Lei dice sì, se non andavano in quelle foreste a fare gli allevamenti di suini. È possibile, dobbiamo un attimino ridimensionarci, perché quello che è successo con questo tipo di epidemia, ma con gli altri outbreak, sono praticamente delle evidenze chiarissime che l'essere umano sta andando sta superando il limite, ok? Sta superando i limiti possibili, immaginabili. Quindi quello che dobbiamo fare è darci una ridimensionata. Sì, possiamo farlo perché è possibile farlo. Perché se andiamo avanti così, diciamo sì, perché come lei ha detto, siamo in un mondo globalizzato. Quindi, ed è stato dimostrato durante questa epidemia, quello che succede da una parte nell'arco di una settimana, succede in tutto il mondo, o di un mese, è chiaro. Esatto. Per cui non questo, è che questo, la purtroppo l'abbiamo, questo purtroppo esatto. L'ha scoperto tutto il mondo, forse questa sarà una lezione per il futuro, cioè capire che quello che sembrava un virus, che quando noi vi chiamavamo diceva come va lì lontana Wuhan, e poi dopo è lo stesso virus arrivato a noi. In tutto questo, vabbè, come va? So che riparte un po' la città, però ci sono altre città della Cina al confine con la Russia, per esempio, che sono state chiuse, quindi non è totalmente finita, anzi tutt'altro la situazione. Allora Wuhan, a Wuhan meglio, cioè, nel senso che Wuhan finora è il posto più safe, più sicuro in questo momento. Le altre parti della Cina hanno avuto casi importati di gente che è rientrata e si è portata a casa anche il virus. Il mondo globalizzato. Esatto, tornando sempre su questa cosa. E no, a Wuhan ieri ufficialmente c'è stata, diciamo, la partenza ufficiale per tutti quanti, anche se io e mia figlia siamo usciti. E sono andata a prendermi il famoso e famigerato cappuccino allo Starbucks, finalmente. E però non c'era molta gente per strada, perché comunque non tutti possono ancora uscire e le persone sono molto caute, quindi, cioè, non so, in Italia magari le persone pensano il lockdown è finito, quindi sono tutti fuori. No, guardi, siamo abituati, abbiamo capito che anche quando diranno inizierà la fase 2, la fase 3, la fase 4, come la vorranno chiamare, la ripartenza, il Premier l'ha definita la nuova primavera, comunque sarà una cosa graduale per la quale dovremo rispettare delle regole ben precise. Le dico che non riprenderanno, nel senso che non riprenderanno non lo dica noi non lo dica noi che non riprenderanno, e chissà se riprenderanno e con tutti fisicamente nelle scuole a settembre. Questo ormai è abbastanza chiaro. Sara Platto, io la ringrazio, ma ci sentiremo ancora, perché insomma mi è piaciuto dare anche degli aspetti un po' laterali, un po' più profondi della solita questione: c'è la mascherina, non c'è la mascherina. Che ne pensate? Dovremmo rivedere un po' il nostro modo di rapportarci con la natura, perché se noi la natura la aggrediamo e andiamo in alcuni luoghi dove poi ci sono il pipistrello che ha il virus, che lo passa al maiale, noi lo prendiamo dal maiale o per il gorilla, poi ci ritroviamo in queste situazioni. La dico molto velocemente, anche se il discorso è molto complesso, ma andiamo un attimo in pubblicità. C'è Vestagliona Manera e poi vi dico questa cosa che ho scoperto sul Corriere della Sera, straordinaria, sull'Olanda, noi l'Olanda e l'Unione Europea, tra poco. 1, nessuno, 100 Milan. Però bisogna dire chiaro che i dispositivi per i medici operatori sanitari sono di competenza del governo. Ha fatto il commissario unico per centralizzare proprio tutta la ricerca e la distribuzione dei dispositivi. È inutile continuare a dire alla regione Lombardia, alla regione Lombardia. Mi chiedevo, ma è possibile che in un momento in cui tutto il mondo si ferma, l'unico mondo che non vuole fermarsi è questo squinternato mondo del pallone? Anche la Novalgina è un buon antipiretico, La Novalgina e la Taichipirigna di Briatore, va bene, cari ascoltatori. Vestagliona Manera, cioè, oggi lo sento molto silente, non ci sono pistole. Buongiorno, che umidificano. Ci sono, stavo Buongiorno. Pensando di cercare qualcuno che mi possa vendere un maiale. Ah, pensavi, ecco perché sentivo questo vuoto pneumatico. Ti lancio l'appello, se c'è qualcuno che mi può vendere un maiale mi contatti, perché? Spiego perché. Ma perché? Io ho già il pipistrello che viene a dormire sul mio balcone. Se ci metto un maiale anche sul balcone, posso, e poi mi metto anch'io, vedo se si può fare il salto di specie veramente. Il di qualche salto virus. Di specie. Casalingo, proprio così. Casalingo, tutto che... Sì, nello stesso balconcino mettiamo il pipistrello, il maiale e Manera e vediamo se si può fare il salto di specie per qualche virus. così abbiamo già il paziente zero, studiamo il caso e abbiamo tutto. Allora, in realtà il tema è molto molto sentito, anche l'ONU a livello mondiale ha chiesto di chiudere questi wet market, no? I mercati umidi, per cui gli animalisti ovviamente si sono molto dati da fare, anche se Sara Platto da Wuhan ci ha spiegato che sono mercati in cui si vende anche la frutta, la verdura, forse allora bisognerebbe dire chiudere quelle parti legate al mercato degli animali selvatici. Come i nostri mercati rionali, solo che dentro ci trovi il pangolino vivo che magari viene, viene macellato. Sì, purtroppo è questo. Senti, ma questa cosa dell'Olanda, tu vuoi fare la guerra con l'Olanda? No, perché c'è una cosa straordinaria. Non so se tu hai letto l'altro giorno un pezzo meraviglioso di Paolo Valentino sul Corriere della Sera, in cui racconta tutto questo retroscena che c'è tra l'Unione Europea, noi, gli olandesi, i francesi, gli spagnoli, insomma, le grandi battaglie sotto traccia in queste riunioni. Allora, devi sapere che riguarda l'Olanda c'è la mitica legge del fracassi. Ne hai mai sentito parlare della legge del fracassi? No. Allora, la mise, questo ha scritto Paolo Valentino, è diffusa alla Farnesina, al Ministero degli Esteri, ovviamente non viene dichiarata apertamente. La mise appunto l'ambasciatore Guglielmo Folchi, anni 60, quando si creava la Comunità Europea. Allora, la legge del fracassi è molto semplice. Sai cosa dice la legge del fracassi? Così, legge del fracassi, nel dubbio in culo ai Paesi Bassi. Questo, giuro, mi scuso per la volgarità, ma è la formulazione della legge del fracassi, che vuol dire veniva consigliato a qualsiasi nostro rappresentante italiano all'Unione Europea a dire: quando hai un dubbio su qualcosa, tu fai così, ascolta quello che dice il rappresentante dell'Olanda e fai sempre esattamente il contrario. Ecco, questo per dire, e quindi c'è in vigore questa legge del fracassi. Cassi, questa è una legge non normata, ma così orale alla Farnesina. È una consuetudine, che poi talvolta può assumere anche forza di legge in certi paesi, la consuetudine. Quindi non lo so, però legge del fracassi reiterata diventa legge. Sì. Tu pensa all'ambasciatore che si è messo lì e ha stabilito: potremmo applicare la legge del fracassi, cioè nel dubbio in culo ai Paesi Bassi, ecco, e questo, vabbè, ragazzi, questo sta succedendo, vabbè, dai, c'è Massimo da Lucca, sentiamo Massimo che cosa ha da dirci, buongiorno Massimo. Buongiorno Alessandro, ti considero un amico ormai da tanti anni. Bello, grande. Sì, no, mi ha fatto ridere, mi ha fatto piangere, mi ha fatto riflettere come fanno veri amici, per me sei un amico. Ascolta, no, volevo fare una considerazione che molti dicono un bar, pizzeria e pesca sportiva. E sul fatto del decreto dei soldi, poi sento tanti miei amici ormai con internet, si parla un po' con tutti, che vorrebbero accedere a queste, diciamo, 25.000 euro, no? Però sì, purtroppo fanno i conti a prima quando si lavorava. E io gli dico: guarda che io, soprattutto con la pesca sportiva, quando si riaprirà, non credo che i miei clienti saranno persone che non hanno lavorato, capito? Certo. Non credo che la gente possa venire a pescare come poteva venire prima, capito? Infatti si fanno dei conti. Devo dire, Massimo, secondo me i conti del vero disastro non si possono fare in questo momento. Infatti. Perché quanti clienti ha perso adesso? Cioè, questo uno lo può dire: dimmi quanti clienti hai perso, quanto hai perso di fatturato, uno lo fa in 448, lo capisce. Quanti clienti non andranno più al bar o alla pizzeria di Massimo perché hanno paura, perché hanno il dubbio, perché non vogliono affollarsi, non lo so. Questo lo sapremo tra tre anni forse, Massimo, come si è messo. Che alcuni partiti hanno chiesto che si ampli la lunghezza del periodo in cui verrà rimborsato il debito, si arrivi a 15, infatti, magari a 30 anni, per quel motivo. Una cosa sola vorrei dire, no? Non ve la prendete tanto con la Germania e con l'Olanda, a parte il fatto che leggendo i giornali lassù spesso si parla di Europa del Sud, e già questo fa riflettere. Però per noi che abitiamo su, diciamo, io abito vicino al mare, 8-9 chilometri, l'Olanda, la Germania, questi paesi qui sono stati tanto per me, perché praticamente con la Vespina se andava sul mare arrivavano pullman delle tedesche. e degli olandesi e noi ci hanno fatto divertire tanto. Massimo, quanto si è divertito? Massimo si è divertito più con le olandesi o con le tedesche? No, giusto per sapere, giusto per fare una cosa completa. No, la maggior parte erano tedesche, anche però una volta ho avuto uno scontro con dei professori tedeschi che vennero tipo armata tedesca, una professore. Gli uomini si fermarono. E la signora, non so se era la direttrice dell'istituto, che poi dopo ho scoperto che qualche ragazza era tornata in Germania incinta, giustamente. E insomma mi fece una romanzina, voi italiani fate schifo, voi italiani qui, voi italiani là. Ma io rispondi... classici luoghi comuni, mandolino, baffi e sì, poi serenata in spiaggia e track. E gli risposi, avevo già insomma, la lingua biforcuta anche a 15 anni, gli disse, ascolti, se le vostre bambine sono così brave come dite noi siamo... Non insomma le cose si fanno due e poi gli dissi le lezioni da una nazione che è stata divisa fino all'altro giorno un ne voglio davvero, gli dissi per l'amor di Dio. Stupendo. Cioè Leonardo, Massimo da Lucca è partito con i problemi concreti del bar e della pizzeria, ma siamo finiti subito ai grandi momenti della gioventù passata. Ma io lo capisco perché capisco perché anche sul lago di Garda venivano le campeggiatrici tedesche, che erano delle figure abbastanza mitologiche. Eccola la bomba! Manera, e secondo te Massimo, Manera, tra le tue 42-43 fidanzate, non avrà avuto almeno due o tre olandesi o tedeschi? O chi lo sa, Barisoni con tutti i numeri che dà potrebbe studiare i numeri di Manera, che numeri sono quelli cinesi, sono quelli perché... Io non ho mai avuto nemmeno una fidanzata, sono sempre stato solo, il bugiardo zero. Si è ripreso, vabbè, no, Massimo dai uno. Da Lucca, coraggio, dico solo questo, tanti come Massimo da Lucca effettivamente dicono va bene, ma io prendo ed è giusto ed è doveroso dire prendiamo dei soldi adesso, ma chi è che riesce a fare dei calcoli, e forse la risposta è nessuno, su quanti soldi si perderanno nella proiezione futura, quanti posti di lavoro. Leonardo, sai che oggi mi ha impressionato leggere su Libero, adesso dove che l'ho visto, ieri avevamo Crepè, no? E Crepè cosa ci ha detto? Quanta sofferenza ci sarà, quante persone... perderanno il posto di lavoro e poi che succederà. Oggi sul Libero si racconta la storia di due sorelle marocchine che si sono suicidate a Venezia e sono buttate da un vaporetto, avevano appena perso il posto di lavoro. A Milano un giovane senegalese di 25 anni la scorsa settimana ha appena messo giù il telefono con il datore di lavoro che gli ha detto ti devo mettere in cassa integrazione, si è buttato di sotto e anche lui. A Pisa si parla di 4 persone che sono tolte la vita negli ultimi 10 giorni, probabilmente legate a questa situazione, queste perdite di vita. È per quello che quando si dice sempre che bisogna così contemperare le esigenze della salute con quelle economiche, queste sono dimostrazioni evidenti, mi pare, no? Sì. Tra l'altro, vabbè, adesso stiamo cercando di valutare la tua proposta ogni tanto di parlare anche d'altro, oggi un po' l'abbiamo fatto, parleremo anche del ponte incredibilmente che è caduto, cioè ragazzi, è caduto anche un ponte in Toscana. Sì? Ah, dicevo, c'è la notizia che insomma poi lo Stato provvederà a dare le garanzie per i prestiti. No? Voi immaginate un imprenditore che va a chiedere prestito alla banca e il dirigente dice chi garantisce? Dice garantisce lo Stato, cosa ormai li rende lui i soldi? E il dirigente dice sì. Ma li rende lo Stato. Sì. Cominci lo Stato non a rendere ma a dare quel che deve dare ai fornitori dello Stato, cioè banalmente questo, quanti sono i debiti, attenzione sfida Luchetti, questa è complicata, quanti sono al volo i debiti pregressi della pubblica amministrazione con le aziende e i fornitori dello Stato, forza, lo vogliamo sapere durante il traffico e vogliamo snocciolare il dato preciso all'euro subito tra un minuto, vai Alpino. Uno, nessuno, 100 Milan. Attenzione, perché c'è una... stavo dicendo c'è una sfida Luchetti persa e pam, paf, è apparso sullo schermo davanti ai miei occhi la cifra che adesso, se non è corretta all'euro, andate a prendere Mina Lucchetti, vi diamo l'indirizzo. La pubblica amministrazione italiana deve pagare 53 miliardi di euro di debiti commerciali. Mi sembra un po' esagerato con le dati 2019. Vabbè, insomma, però 53 miliardi? Forse un po' troppo. Siamo sicuri? Vabbè, insomma, questa è la sfida Lucchetti. E la sfida Lucchetti è anche un po' un mistero di Fatima che dobbiamo prendere. Ma così. Secondo me lei non controlla neanche più Miriam Lucchetti, dice i numeri così a caso, perché non c'è nessuno che poi va a verificare se quello che ha detto lei è vero. Quindi lei dice, ma sì, chi se ne frega, mi sanno dei numeri a caso a Milan. È arrivato un po' più precisa. Secondo le stime della Banca d'Italia, l'ammontare dei debiti commerciali alla pubblica amministrazione italiana è 53 miliardi, 4 in meno rispetto all'anno precedente. Cifre allora, che però, scrive lei, bisogna prendere con le pinze, certo, con le pinze, si basa come, su indagini perché, statistiche, no, si basa su numeri a caso, che dice lei, perché funziona così. No, lei dice un numero a caso, tu lo riferisci e quando tu l'hai riferito lei dentro di sé pensa ci ha creduto. No. Va bene, sta ingannando milioni di ascoltatori, sì, cara Miriam Lucchetti, sappiate solo questo. È così. Va bene, Leonardo, hai sentito della tachipirigna di Briatore? Sì, ho sentito. La tachipirigna, va bene. C'è anche il paracetamolau, per qualcuno. Vabbè, dai. Sentiamo Maria Rosa da Torino, dopo ci dici qualcosa. Maria Rosa, buongiorno. Buongiorno, spero che mi sentiate perché sono benissimo. Quasi afona. Oh, mannaggia. Credo che sia poi il virus, ho avuto la tosse, eccetera. No, l'argomento che volevo proporre era quello delle seconde case, allora, sia al mare sia in campagna. Tanti di noi qui in Piemonte hanno la vecchia casa dei nonni ereditata in campagna, me compresa, no? Io per esempio ne ho una a Biella, una vecchissima casa. Adesso ci è impedito assolutamente di recarci in queste case. Beh, per ora sì, Maria Rosa. Quindi non si può assolutamente muoversi neanche con un'auto privata, da soli, quindi non contagiando nessuno, nonostante sia a Biella sia al mare così hanno aumentato per esempio la tassa rifiuti. Io non ci posso andare, però mi hanno aumentato la tassa rifiuti. Ah, beh, certo, quello le tasse, le tasse. Sì. Perché è ancora da vedere se questa persona potrà venire, perché non risiede neanche proprio a Biella, e quindi non posso andare, non posso fare niente. Ma ho capito, Maria Rosa, oltre a raccogliere il suo appello accorato e di disperazione, che cosa possiamo fare noi? Cioè, tutta Italia è in questa situazione. Segnalare questa assurdità, perché da pochissimo ho ricevuto la comunicazione dal comune che comunque uno pagherà la tassa rifiuti se aumentata. Anche se non consegna mai. Cioè lei dice pur non andando lì c'è la tassa sui rifiuti ed è anche aumentata. Sì, c'è da dire, mi scusi Maria Rosa, che non si può andare nelle seconde case da con te 20 giorni, 30 giorni, la tassa sui rifiuti si calcola sull'anno e quindi lei, come dire, se rimanesse in maniera perpetua questo divieto, io la posso capire, se per, che ne so, un mese, due mesi non si potrà andare, quantomeno lei dice dovrebbero farmi pagare la tassa scalata di due mesi di quote. Il tema c'è, però è un tema che purtroppo ci vede tutti in questa situazione. Caro Leonardo. Allora. Hai finito di sbuffare o vuoi dirci anche qualcosa? Sì. Tra pochi giorni è Pasqua, sarà una Pasqua diversa dal solito, ma che probabilmente ricorderemo. Molti di noi in situazioni normali a Pasqua sarebbero andati al mare, perché quello di Pasqua è un periodo in cui si comincia ad annusare l'estate. Di solito capita intorno a metà aprile, quando l'Italia comincia a promettere sole e caldo e quando comincia a esserci voglia di passeggiare sul lungomare. I bagnini negli stabilimenti balneari cominciano a sistemare le spiagge, compaiono i primi lettini e ombrelloni, in questa Pasqua ce ne sarebbero stati molti visto il caldo. Le ragazze si vestono con le gonne un po' più corte, i ragazzi sbottonano le camicie bianche sul petto dopo mesi di maglioni girocollo. Nei luoghi di mare i bambini fanno i capricci per avere i primi gelati stagionali. al cioccolato, che poi inevitabilmente lascia traccia di sé su tutti i componenti della famiglia, visto che il gelato per il bambino non è tanto qualcosa da mangiare, ma una specie di arma letale con cui sporcare qualsiasi cosa si trovi a meno di un metro di distanza. Se a Pasqua si va a messa, poi ci si ferma volentieri a parlare sul sagrato, assaporando quel sole che produce i primi visi abbronzati e, per chi è come me, le prime pelate ustionate. Nei ristoranti sul mare si mangia all'aperto tra spaghetti alle vongole e fritti misti con le caraffe di vino bianco. E di sera si passeggia su e giù immaginando l'estate che tra non molto arriverà e parlando di progetti per il futuro. E poi le coppie senza figli che magari vanno in vacanza insieme per la prima volta, nelle camere d'albergo fanno l'amore dedicandosi anche ai preliminari che tanto il giorno dopo non si lavora. Insomma, le vacanze pasquali di solito sono una promessa d'estate, ma anche già una piccola esperienza concreta di sole, mare e spensieratezza. Quest'anno tutto questo non ci sarà. Resteremo nelle nostre case, allora se vogliamo sopportare serenamente il peso della rinuncia, dobbiamo immaginare non come sarebbe andata la nostra vacanza pasquale se fosse andato tutto bene, ma invece immaginarla con tutti gli inconvenienti che avrebbe potuto avere questa vacanza. A partire dall'hotel, che avrebbe potuto avere letti scomodi con materassi semisfondati, e nel bagno quei box doccia col soffione dal quale c'è sempre poca acqua e mai con la temperatura giusta. Gli spaghetti con le vongole ancora piene di sabbia, magari anche con un sassolino bello grosso che avrebbe rotto un dente. Il figlio petulante e insistente che non solo pretende il gelato, ma anche tutti quei giocattoli colorati che vede nelle cartolerie, costosi e inutili. Durante la passeggiata serale, invece di sereni progetti per il futuro, recriminazioni sul passato, oppure litigi pesanti perché lui durante la passeggiata guarda qualcun'altra, suscitando l'ira della compagna. Quindi a seguire silenzi, rimpianti, gelati mangiati appunto in silenzio e con lo sguardo torvo, immaginando imminenti separazioni. E poi di notte invece di gratificanti rapporti sessuali, mal di stomaco per aver mangiato male, bevuto troppo e pagato eccessivamente. Poi l'uovo di Pasqua, col bambino che piange disperatamente perché la sorpresa lo ha deluso. Per non parlare della coda che sicuramente avremmo trovato al rientro. E perché no, anche qualche guasto alla macchina che avrebbe necessitato di un soccorso stradale. Avrebbe potuto andare anche così, quindi non pensiamo a quello che abbiamo perso, ma a quello che forse abbiamo evitato. È l'unico modo per sopravvivere serenamente a questa nostra strana, inusuale e casalingua Pasqua da coronavirus. Hai detto casalingua. Questa, casalingua, detto casalingua, sono come Briatore. Però guarda, invece io ho nostalgia di spaccarmi un dente con una vongola, col sasso, ti dirò a questo punto. Allora sai che io sono stato una volta al milionario, no, una volta che sola. Sta succedendo? No, ma perché? Cosa vabbè, è successo? Ma cos'è sto tono seccato? No, sta arrivando. Sì, vabbè. Sì, ormai vorrei è un del giubilo. Ma come un incubo? Buongiorno, cioè, buongiorno Alessandro, buongiorno Leo. Eccomi qua. Buongiorno. Come state? Cos'hai da essere così allegra? Non ho capito. Sono allegra perché sto lavorando a un sogno da stamattina. Ho aperto i giornali online svizzeri e una delle notizie che campeggiano su questi giornali è il fatto che è stato avvistato un orso in Val Poschiavo. E mi sto chiedendo, no, interessantissimo, perché mi sono fatta tutto un mio film mentale, ho detto sia mai che sia M49 in fuga dall'Italia che stia chiedendo asilo politico in Svizzera. Mi piacerebbe da matti questa cosa. Molto se fosse bello. M49, questa è la notizia di apertura un no po', dai, dei adesso non vorrei sminuire l'informazione svizzera, non è di apertura, ma è una notizia, campeggia su. Tu sei interessato, Leonardo, per esempio, a sapere tutto di questo orso? Non aspettavo altro. Vabbè, abbiamo parlato fior di puntate di M49 che è in fuga e tutti che gli danno la caccia, non si sa più dove sia. Potrebbe essere lui in Val Poschiavo. Potrebbe essere lui, bene. E c'è un dibattito ovviamente serrato. Ancora no, ma appunto punta ad animarlo in giornata. Se avrò dei momenti molto di noia, bene, potrei anche farlo scattare, sì. Molto breve, grazie Elisabetta Fusconi. A ci voi, è un piacere, moltissimo. Quando volete, a disposizione. Ma certo, benissimo. Allora, prima di andare al giornale radio, è stupendo perché Miriam Lucchetti mi ha mandato nella schermata una notizia. Confermo, mi ha scritto sotto la notizia dei debiti. Io stavo chiamando in onda l'ascoltatore, confermo. Buongiorno, confermo. No, invece poi ho capito che confermo non è un ascoltatore da chiamare, ma Miriam che conferma. Va bene, tutte paranoie mentali mie, Leonardo. Stai tranquillo, rimani nel tuo silenzio e non ti preoccupare. Non è successo nulla. Andiamo al giornale radio. Uno, nessuno, 100 Milan. Credito dei debiti della PA. Io ho una cartoleria e un comune mi deve ancora 22 euro di una cedola libraria. 22 euro da settembre. Qualcuno può spiegare a sti signori delle seconde case che siamo tutti sulla stessa barca? Si sta in casa! Si sta in casa! Buona! Se iniziamo ognuno a fare quel cavolo che ci pare, è chiaro che tutto diventa fuori controllo. Dai, stiamo in casa, un mese, due, ce la facciamo, dai! Mi dispiace per quelli che perdono il lavoro, non per quelli che hanno la seconda casa a pagare la tassa sui rifiuti. Caro ascoltatore, la signora che stava in casa segnalava: io sto in casa, però perché mi aumentano addirittura la tassa sui rifiuti? Cioè, cosa devo dire anche all'ascoltatore che la cartoleria deve ricevere 22 euro dalla pubblica amministrazione? Cioè, poi quella stessa pubblica amministrazione non credo che gli sconti 22 euro dalla tassa dei rifiuti. C'è una roba ridicola, una roba che se uno la racconta è ridicola, o meglio, ridicola o tragica, perché in certi casi fa piangere. Allora, la terza mezz'ora di Uno Nessuno 100 Milan. Leonardo, tutto bene? Hai fatto delle pulizie? Sì, no, sono un po' ormai, ce l'hanno ripetuto così tanto, stiamo in casa, sto a casa, che mi comincia a essere un po' stucchevole. Lo sappiamo che dobbiamo stare in casa, ma quelli che si ergono, no, a difensori della pubblica salute, continuano a dire stai in casa, lo sappiamo, stiamo quasi tutti in casa, non c'è bisogno che se lo ripetiate ogni 5 secondi, stiamo a casa, sto a casa, sono qui. Sì, va bene, non dirlo neanche tu, mi viene l'ansia, stai a casa. Lo so, sono qua dentro da un mese, non ditemelo più. A casa, sì, sono qua. Allora, chiuso, ci ha scritto un cardiologo del Papa Giovanni di Bergamo, tra l'altro dice nostalgico del posate le tazzine del caffè bollente quando facevo la rassegna stampa, la notizia da mani sul volante. Ci chiede: visto che i sanitari si autocertificano di non avere febbre, visto che medici e infermieri vanno a lavorare ogni giorno, perché le attività industriali con le debite precauzioni, mascherine e guanti non possono ripartire? Ci fa questa domanda. Poi ci scrive una parrucchiera: Anna, lei e il marito sono parrucchieri, non sapremo più né quando riapriremo e quando riapriremo se i clienti verranno. E questi sono i veri drammi. E invece Paolo da Milano dice che questa mattina non ha visto pattuglie in giro della polizia a Milano e dei vigili, ma ha visto tante e più persone in giro. Lui può andare perché è autorizzato per lavoro, ma ha visto molte più persone rispetto ai giorni scorsi. Questo è Registriamo. Vito da Milano, buongiorno Vito. Buongiorno Milan, è una vita che volevo provare, ma ho sempre avuto un po' vergogna, la prima volta che chiamo una radio. Riprovi un'altra volta allora, sì. Non stia oggi, magari. Allora la domanda che faccio io è questa: è un periodo di crisi, si cercano i soldi, ma perché lo Stato non se ne fa dare un pochino dalle assicurazioni? È 3 mesi che non guido la macchina, quanti soldi si è incassato? Non solo della mia. Ho capito, un assicuratore le direbbe, sì, certo, questo è vero, e l'assicuratore direbbe: ma perché Vito tu vuoi male a noi assicurazioni e non li prendiamo da un altro? Nel senso, non ci sono incidenti, un po' di soldi prendeteveli lì. La questa stessa cosa di quando ci sono l'inquinamento e ci obbligano a lasciare la macchina a casa, ci volete dare sti mezzi gratis, la metropolitana, per andare in giro? Però con questo principio capisce che è vero, ci sono meno incidenti, quindi prendiamo i soldi delle assicurazioni. I benzinai diranno: scusate, la gente non va in giro, noi stiamo fallendo, ci date un po' di soldi. Quindi alla fine c'è chi chiede, c'è chi vuole dare, c'è chi non vuole dare. È un è una situazione, è un disastro. Vito da Milano, chiami la prossima volta quando prenderà la linea. Allora, chiami adesso quando però, non Leonardo, ci sono problemi. No, dicevo Vito, chiami quando non c'è nessun problema. No, Leonardo, però io adesso sono felice di dare il buongiorno a un ospite, perché in tutto questo passa in secondo piano e finisce a pagina 30 dei giornali, giustamente per le emergenze, il fatto che è crollato un ponte di 258 metri ieri, di colpo. Un ponte che peraltro, un viadotto sul fiume Magra, nel comune di Aulla, dove il sindaco da più tempo aveva detto, guardate, e molte persone hanno detto, guardate, questo ponte è pericolante. L'ANAS, gestore, ha fatto degli interventi e ha detto non ci sono allarmi. Ora, il fatto che ci fossero degli allarmi e che fossero giustificati lo dimostra il fatto che il ponte è crollato, poi si vedranno le responsabilità. Ma salutiamo l'ingegnere Antonio Occhiuzzi, che è direttore dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione al CNR. Buongiorno ingegnere, grazie di essere qui. Buongiorno a lei, buongiorno. Si vedranno le responsabilità, ma com'è possibile? Un cittadino che vede un ponte di 258 metri sbriciolarsi, cosa deve pensare, ingegnere? Allora, il tema è molto complesso, ovviamente, e richiede anche, come dire, un approccio di sistema che si è tentato di cominciare dopo la tragedia del Polcevera a Genova, ma che non ha avuto ancora un completo inquadramento. Allora, un ponte, sono varie cose che possono probabilmente interessare chi ci ascolta. Intanto quel ponte è crollato tutto insieme in virtù di un suo particolare concetto costruttivo, è una sequenza di archi che sono per l'equilibrio, ciascuno ha necessità di avere perfettamente funzionante i due adiacenti. Quando viene meno uno, tutto il sistema viene giù, che probabilmente è quello che è successo. Perché il come primo, un domino, diciamo, insomma, per capire. Sì, è un domino, esattamente. L'equilibrio di ciascuno si fonda sulla buona salute di quello che lo segue e di quello che lo precede. Come è venuto meno il primo è difficilissimo naturalmente da capire, però qui si apre un tema complesso. Io non ho idea, diciamo, di quello che diceva poco fa, diciamo, responsabile o chi l'ha visto. Certo è che sono tipologie esecutive, quel ponte teoricamente ha circa un secolo di vita, ma è stato completamente ricostruito nel dopoguerra. In ogni caso sono tipologie che sono oggi non più frequenti, per cui c'è pochissima competenza anche tecnica sull'analisi di questo tipo di strutture. Il tema è quanto costerebbe, ingegnere, quanto costerebbe modernizzare tutte le infrastrutture del nostro paese, una cifra che non voglio neanche immaginare. Limitiamoci ai ponti stradali, sono circa 60.000. Puoi immaginare che una parte significativa di queste è stata realizzata nel secondo dopoguerra con tecniche e tecnologie dell'epoca, naturalmente, no? È un po' come se lei dicesse sono tutte euro zero le auto, diciamo, di 50 anni fa. È chiaro che nessuno ha la bacchetta magica per trasformarle in euro 6. Comunque all'epoca le tecnologie disponibili permettevano, ma questo l'abbiamo capito oggi, una vita media utile intorno ai 50 anni. Per cui l'idea dovrebbe essere quella di salvare dove è possibile, ma sostanzialmente sostituire migliaia, forse decine di migliaia di ponti stradali realizzati più di 50 anni fa. Stiamo parlando di cifre che si misurano in svariate decine di miliardi di euro, però voglio dire, l'alternativa è quella che vediamo nelle fotografie, vengono giù. Guardi che l'episodio precedente di meno di una settimana fa in Sardegna, è vero, è finito ieri Miriam Luchetti in redazione me ne parlava, diceva guardate che è successo anche in Sardegna, purtroppo in questa emergenza coronavirus passa sotto silenzio il fatto che crolli un ponte, che voglio dire, e cara grazia che il coronavirus ci ha salvato, che c'erano solo due mezzi su quel ponte, se no era una strage come a Genova. Cioè, ma un tecnico che fa il sopralluogo è in grado di capire se un determinato ponte ha dei problemi, sta per cedere, oppure è molto difficile? È un'ottima domanda questa. Allora, il tecnico, per quanto competente, non ha capacità divinatorie. Per avere un'idea dello stato di salute di un viadotto come quello che è crollato ieri mattina, è necessario non solo, e non certamente non basta andarlo a visitare, ma fare una serie di indagini, prove, studi che richiedono, le do degli ordini di grandezza, da 6 a 8 mesi di tempo e circa 100.000 euro di indagini. Senza queste due, diciamo, senza questi due fattori, soldi e tempo, andare a fare una passeggiata sul ponte e perdere tempo. Eh sì, cioè uno dice c'è una crepa, ma una, non è che è una crepa che è stata segnalata peraltro da molti, non solo dalle istituzioni, dai cittadini, una crepa, uno va lì, è un tecnico, è un ingegnere, ha studiato, però non è che da una crepa ci sta dicendo uno può stabilire che cosa succederà nell'immediato futuro. No, può significare tutto e niente, una lesione, un viadotto. Solo che a questo punto anche le risposte che vengono date evidentemente non sono giustificate se non ci sono queste indagini ulteriori. È sostanzialmente così, tenga presente che lo scenario che facevo, diciamo uno studio accorto e attento su un ponte come quello sul Magra, richiede appunto, diciamo, l'individuazione di una serie di figure professionali, aziende che fanno indagini sul sottosuolo, indagini sulle strutture, un professionista competente che possa studiare l'esito di queste indagini e lo stato dei luoghi. Ecco, tutte queste operazioni nel nostro paese richiedono complicatissime procedure di appalto, per cui, diciamo, io ho detto 6-8 mesi è il tempo per studiarlo, ma probabilmente ci vogliono un paio d'anni solo per individuare chi le fa. Noi siamo in un sistema ingessato e bloccato che è terrificante, insomma. Sì, c'è da dire anche una cosa, lo dico proprio questo ai cittadini, a tutti noi, a primo a me stesso. Se un mese fa si fosse svegliato un amministratore o l'autorità avesse detto dobbiamo chiudere il ponte di Albiano, il viadotto di Albiano, ma lei si immagina, ingegnere Occhiuzzi, la popolazione che tipo di rivolta avrebbe fatto? No, non è possibile, io devo andare qui, devo lavorare, devo spostarmi. Cioè c'è anche questo, che spesso una decisione così impopolare di chiudere un ponte nessuno se l'assume, perché viene subissato da critiche, perché tutti dicono ma figurati se frana, poi quando crolla tutti sono pronti a dire ma io lo sapevo, l'avevo detto, l'avevo denunciato. È una situazione oggettivamente molto complessa, proprio come dice. C'è da dire anche che diciamo, un parere qualificato può portare a soluzioni intermedie tra il non fare niente e una decisione drastica come chiudere un viadotto importante. È possibile, ad esempio, considerare particolari limitazioni di traffico, come dire, delle piste delimitate da apposite barriere in modo che i carichi siano, diciamo, in qualche modo reggimentati su ponti che possono dare delle preoccupazioni. Però, mentre le dico che questo in generale è possibile, certamente non è una qualcosa che si può associare diciamo, al disastro di ieri. Non ci passava praticamente nessuno se non due camioncini, quindi il problema non erano i carichi. La situazione è ampia e complessa ed è molto difficile. Il Paese dovrebbe pensare a un piano gigantesco di sostituzione delle opere pubbliche, certo, delle opere stradali. Sì. E in questo momento purtroppo il portafogli langue tantissimo. Noi, ingegnere Antonio Occhiuzzi, la ringraziamo perché è stato molto chiaro anche nello spiegarci tutta la complessità della situazione. Direttore dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR, andiamo alle informazioni sul traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno Radio 24, sono Paolo da Torino. Mancano 5 giorni alla fine della mia quarantena e convalescenza da Covid-19. È vero, non bisogna ripetere ogni 5 minuti state a casa, ma contro certe cocciutaggini italiane bisogna ripeterlo ogni secondo. State a casa. L'unica cosa buona che l'Olanda ci ha dato in tutti questi anni sono quei tre del Milan. Beh, non è male. Rijkaard, Gullit, Van Basten, te lo ricordi? Il trio delle meraviglie. Come dimenticarlo? Stati gli anni migliori delle nostre vite, sicuramente. Sì, sì, delle nostre, insomma, gli interisti e gli juventini non ci interessa, ma in modo egoistico, Rijkaard, Gullit, Van Basten, la potenza fisica mista alla classe, cioè non c'è stato niente di meglio al mondo, potenza fisica e classe tecnica riassunti straordinariamente in tre giocatori. Vabbè, ma che volete che prima... capire voi delle altre squadre, dai, su. Anche solo per parlare di un problema comunque grave come quello dei ponti, ma non parlare di coronavirus, mi ha per un attimo... Effettivamente, ma noi stiamo discutendo di questo tema che tu hai lanciato, fare delle puntate slegate dal coronavirus. Infatti è arrivato un ascoltatore, fate bene a seguire l'idea Manera, bella l'idea Manera di parlare d'altro. Certo che se parlate di un ponte crollato, allegria! Vabbè ragazzi, guarda, però noi qui parliamo importa, delle notizie di cronaca, non importa. Mi solleva comunque l'animo, ecco. Vabbè, ma oggi abbiamo parlato, abbiamo avuto Calì in apertura che ci ha raccontato di questa vicenda che seguiamo sulla signora Manduca, purtroppo, e il risarcimento che devono dare allo Stato, non devono dare più. Poi abbiamo parlato di ponti e dai, ce la stiamo facendo lentamente. Abbiamo parlato della legge dei fracassi, te la ricordi, no? La legge dei fracassi che alla Farnesina, no? Te la ricordi la formulazione? Sì, ricordo. Abbiamo parlato tanto di Olanda, hai visto, di Paesi Bassi, di Olanda, del giocatore del Mina, la legge al fracassi. Io una volta mi ero innamorato ad Amsterdam di una ragazza olandese. Sì, era in vetrina. Quelle che ci sono. Sì, ma non sono entrato perché io sono molto timido. Poi ho visto uno che è entrato e mi sono ingelosito tantissimo, ma veramente, perché diceva questa per me sarebbe la donna ideale. Per timidezza non sono entrato e... Tra l'altro ci sono due aspetti, che piccola storia amara e triste, ci sono due aspetti da raccontare. Il primo, Conte, poco fa la BBC ha rilanciato una sua intervista, ha detto possibili rallentamenti e allentamenti delle situazioni di chiusura dopo Pasqua, entro aprile, graduale, insomma. Ecco, in questi casi invece di dare delle pilloline di dolcezza bisognerebbe dire le cose quando sono certe e sicure, che la gente non capisce, possibili qualche allentamento entro la fine d'aprile, che vuol dire? Non si sa. Secondo, c'è una polemica perché Die Welt, giornale tedesco, ha lanciato questo allarme. Attenzione, perché la mafia in Italia, le mafie attendono i finanziamenti dell'Unione Europea. Apriti cielo, il ministro degli esteri Di Maio poco fa ha detto è una vergogna, si scusino, Berlino si dissoci. Ma ragazzi, va bene essere nazionalisti, difendere, ma... ci sono fiori e fiori di inchieste che raccontano come da anni le mafie speculino sui finanziamenti dell'Unione Europea. Che male c'è nel dirlo? Cioè, non è che hanno detto una cosa strana quelli di Die Welt, hanno detto quello che succede da 30 anni. Mo adesso ci dobbiamo offendere perché si dice la verità. A proposito, per alleggerire un po', citerei una battuta coniata l'altro giorno da mio figlio, che è la seguente a proposito di mafia. Dice: sai cosa utilizzano i mafiosi per proteggersi dal coronavirus? La mascherina. Non è male, bravo Beniamino. Mi sa che ha un futuro. Francesco da Roma, buongiorno Francesco. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Manera poteva fare di meglio, poteva fare di meglio con questa battuta. Sì, no, ma no, è il figlio di Manera, mi sa, Beniamino, Beniamino ha 10 anni. Dai, la mascherina, allora. 10 anni. Poi mi sta a ridere comunque, devo dire. Francesco. Io volevo riprendere velocemente, prima camminando, andando a fare la spesa, sentivo della signora di Foggia che si lamentava rispetto al decreto di liquidità. E io vorrei lanciare un po' un sentimento differente, nel senso è inutile appoggiarsi a tragedie su un altro finanziamento, un altro mutuo. Io faccio parte di un mercato dell'Horeca, quindi delle attività commerciali, bar, ristoranti, vendo ghiaccio, quindi immaginate, per me è tutto morto chissà fino a quando. Però il concetto è indebitiamoci, ma che cazzo ci frega, scusate il termine, ma assolutamente, se tanto tutto è stato all'Europa frega abbastanza, al mercato internazionale frega abbastanza, è logico, poi, ma infatti, il problema è chi se lo prende sto debito, cioè se esatto, poi dopo ma chi nessuno può immaginare che i soldi vengono regalati, anche se fosse un 0,4, un 0,5, un 0,8, un 1. Sì. Ma non esiste. Però è bello come l'ha detto lei, com'è che l'ha detto? Indebitiamoci? Indebitiamoci. Sti gran puntini, puntini, puntini. L'alternativa, anche fosse un mega reddito di cittadinanza, tanto sempre qualcuno, poi da qualcuno deve andare a ridare i soldi. Lo so, però il debito pubblico, Francesco, è stata un po' anche la nostra rovina, il nostro fardellone che ci portiamo sul groppo da un bel po' di anni, eh? Quindi insomma, facciamo il reddito di cittadinanza a tutti, come abbiamo fatto le pensioni di le baby pensioni a tutti, e poi dopo i risultati negli anni sono questi. Se a lei non interessa che tra 30 anni i nostri figli abbiano sto debito triplicato sul groppone, non lo so. Vabbè, Federico Taddea, eccoci qua. No, eccoci qua. Buongiorno, è il tempo di giocare. Una puntata, un'ora e mezza di giochi potremmo fare. Un'ora e mezza di giochi. Ma io voglio Beniamino come autore, tra l'altro. Perché, sì. Assolutamente. Allora, molto velocemente oggi volevo proporvi intanto un classico gioco da picnic, quindi da Pasqua, sì, Pasquetta, che mi sembra ottimo, come buon auspicio, che è Ruba Bandiera, ma da giocare in casa. Ruba bandiera è un classico, no? Quello col fazzoletto, si chiama un numero, si corre, il primo che prende il fazzoletto e torna dietro la linea, è proprio un grande classico. Ovviamente in casa tutto ciò non si può fare, quindi per giocare a ruba bandiera in casa, un ruba bandiera da tavolo, serve o un vecchio atlante, no? Proprio un atlante cartaceo, un grande classico che ha sempre la doppia pagina con tutte le bandiere, oppure dobbiamo un attimo sbatterci al computer, cercare una bandiera da fermi, insomma, bisogna indicare proprio, le bandiere. È proprio da tavola, ecco. Esatto, mi si apre. Però le bandiere hanno sempre il loro fascino, quei bambini e con le bambine. Si apre la doppia pagina, bello, o la grande stampata con tutte le bandiere, chi guida il gioco indica la nazione e il primo che riesce a mettere il proprio dito sulla bandiera ha vinto. Invece è facile, ma è un grande ruba bandiera. Il secondo gioco, invece, anche questo già sperimentato, è il basket da tavola. E sì. Si può giocare uno contro uno, si può giocare anche da solo contro il muro. Servono dei bicchieri e una pallina da ping pong. Okay? Si mettono 4-5 bicchieri, ognuno con un punteggio diverso, e facendo fare almeno un rimbalzo alla pallina da ping pong sul tavolo, bisogna fare canestro. Anche questo è un grande classico. Se giochiamo rimbalzo, un grande classico. Una squadra contro l'altra. Sì, io, esatto, per esempio, Elisabetta Fusconi passa ore così in redazione, anche in tempi normali. Scherzo, ovviamente. Si può giocare anche contro il muro, basta appoggiare il tavolo contro il muro e fare canestro di rimbalzo, che vale doppio. Da solo è un po' amaro, però devo da dire. Da solo è un po' amaro. La pallina nel bicchiere meglio una grandissima amarezza. Sì. Infatti, sono giochi che aumentano un po' la asocialità, cioè usciremo devastati da questa. Cosa hai fatto? Ho giocato tre ore a basket. Da solo a buttare la pallina nel bicchiere, grande amarezza. La migliore battuta prima nel ringraziare Federico Taddea di Paolo Fabbri via mail: perché ci trattano così gli olandesi? In fondo sono nostri fratelli, figli dei bagnini di Rimini, di Riccione, di Ischia. Vabbè, ma Leonardo, è il tuo momento, è il momento di urlare al mondo cosa vuoi. Libertà! Nessuno, 100.000 anni.